RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme per la seconda ora di RadioTube Social Network, sempre 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola Marta Cagnola per i miei social, Twitter e Instagram, ma non ho neanche dato uno sguardino ai social perché abbiamo fatto un sacco di dirette con un sacco di ospiti nella prima ora. Ho anche fatto un monologo di 3 minuti, ma me la sono cavata. Vabbè, capita in radio, ragazzi, soprattutto in una radio come la nostra, in cui non è che lanci un disco e poi uno va a bersi un bicchiere d'acqua. Sta dicendo fumarsi una sigaretta, ma io non fumo. No, qui invece, qui è proprio tutta vita, tutta diretta, qui si va avanti. Però vi ho già svelato chi è il co-conduttore della seconda ora. Dopo la prima ora, quella di Social Village, in cui si parla moltissimo di spettacoli, nella seconda ora abbiamo il co-conduttore che abbiamo già tirato fuori dal cilindro come il proverbiale coniglietto, il nostro Diego Castelli. Diego, grazie. Non ce l'abbiamo? C'è sparito Diego Castelli? No, vabbè, cioè... No, non è giornata, ragazzi. No, vabbè, ma allora dite, stanno ridendo di là, stanno ridendo perché non è giornata. Quasi ce l'abbiamo, Diego Castelli. Ciao, c'è. Allora, ma perché i tuoi colleghi mi stanno facendo usare questa app meravigliosa che consente di fare questa cosa in modo meno ingessato che il telefono, solo che ogni tanto l'audio sparisce e io sudo sotto camicia. Perché ti senti una responsabilità troppo sì, ma forte. Perché non so cosa fare, sono qua col telefono così, va bene. Comunque allora però io mi devo concedere un regalo, perché siccome io sono una sua grandissima fan, non posso non fare un in bocca al lupo per questo nuovo teche, l'abbiamo evocato nella prima ora, Salvo Guercio. Salvo, ciao. Bentornato a RadioTube. Ciao, ma come sai che stai? Io bene, ma sai che io sono una tua fan scatenata. Ma tu sei troppo carina, e però, non posso non averti a RadioTube. Perché... Ma io ti ringrazio, non merito tutto questo affetto. Perché qui cosa lo dicevo prima. Allora, per me un tempo l'estate iniziava quando c'era la pubblicità del gelato. Sì, allora il cuore di panna, uno vedeva la prima e diceva: sta per finire la scuola, arriva l'estate. Un ascoltatore in realtà ci suggerisce al 349-238-6666 lo spot della cedrata. Anche quello eterno. Ma tu dici quello che faceva la Mina, che non possiamo dire il nome del prodotto? Ma diciamo la cedrata Tassoni, tanto c'è solo brava, quella di cedrata, brava, anche sì, perché sì, tu sì. Sei un cultore di Mina, quindi insomma lo sappiamo. E invece per me è quando parte la sigla di Teche. Diego, cosa ne pensi da televisivo? Cosa ne dici, Diego Castelli? Io, per una questione puramente aziendale, devo dire che l'estate comincia con Paperissima Sprint. Oh, scusa, ma... è vero. Ma no, dai, scherzo. Mannaggia. Siamo la concorrenza, No, guarda, l'ho visto anche ieri sera, teche, quindi no, ieri sera con Vice Valori. Assolutamente, sì. programmone. Nessun tipo di dubbio. Salvo, ti faccio subito rispondere a questo messaggio che ci ha scritto Daniela, che dice che lei preferirebbe che venissero trasmessi non spezzoni, ma programmi interi di un tempo, ci sarebbe più audience e più soddisfazione. Che cosa dici? Scusa, che è andata via un attimo la voce, che venissero proposti? Programmi interi e non spezzoni. Non so in che fascia, però. In prima serata. È un po' difficile, eh? È difficile, sì, anche perché poi la gente si lamenta e dice: ma come, noi paghiamo il canone, ci mandano in onda le repliche, quindi praticamente scontenterebbe sia quegli uni e quegli altri. È vero. Guarda, un tempo li mandavano nottetempo ed erano molto apprezzati. Vabbè, adesso c'era i play e quindi un sacco adesso di cose io me le sono play, recuperate, quindi non su c'è Rai più Play. Esatto, cioè chi vuole va e se li vede. Salvo, per te, quest'anno avete fatto una scansione di giorni della settimana. Di giorni, esatto. Guarda, io la mia puntata l'ho aperto io venerdì con una puntata jukebox dedicata alle canzoni sexy. Non mi ricordavo quella del telefono, quella dell'operaio della SIP. Kessler. Sì, che tra l'altro è una cosa che nessuno si aspetterebbe dalle Kessler, una cosa così a doppio senso. Beh, a doppio senso, quasi senso unico, perché... No, infatti, il telefono me lo mette dappertutto, insomma, era veramente... pazzesca! Sì, pazzesco. E poi, vabbè, ci sono state tante altre cose. Quest'anno facciamo, il lunedì ci sono gli sceneggiati. Per la prima volta c'è un'apertura anche a un altro genere di spettacolo che non è proprio l'intrattenimento, i grandi sceneggiati della Rai. Forse è più difficile da montare, però, una puntata di Teche Teche. Sì, è più difficile da montare, decisamente. Ad argomenti anch'essi, nel senso che ci saranno gli sceneggiati dedicati all'avventura, quelli alla famiglia, i misteri. Insomma, ogni lunedì ci sarà un argomento riguardante appunto gli sceneggiati. Bello. Il martedì Sanremo Graffiti. Vabbè, sono già pronta, le so tutte. Quindi, insomma, sono tutto quello che riguarda il festival. Il mercoledì è il viaggio in Italia, quindi è un viaggio nelle varie regioni, con vari pezzi di musica, di spettacolo, eccetera. Poi il giovedì c'è il jukebox. Anche lì cantiamo bene. Quindi con canzoni che possono essere o jukebox tematici o meno, insomma, a discrezione dell'autore. Il venerdì ci sono i numeri uno, quindi grandi personaggi che hanno fatto la storia della televisione. Io ne ho preparata una su Mondaini Vianello. Bello, ci anche piace sempre. Ci sono piace 10 sempre. Anni dalla loro, ahimè, comparsa. No, quest'anno. sono molto contenta, vale la pena poi sempre rivedere. Poi io penso magari ai ragazzi che non hanno fatto in tempo a conoscerli e possono scoprire tante cose del passato. Anche perché le nuove generazioni conoscono forse solo un po' per Casa Vianello, ma tutti i grandi loro varietà forse non li hanno mai visti. Poi il sabato c'è il varietà, quindi dedicato a vari programmi, oppure ai grandi registi Antonello Falqui, Enzo Trapani, eccetera. E poi la domenica i temi, le puntate tematiche. Bene, quindi la scansione settimanale sarà questa. Molto, molto bene. Senti, intanto qua c'è ascoltatori che chiedono cose, questa però è un'impresa, perché chiedono se tu sei capace di trovare i filmati delle prove tecniche di trasmissione a colori, quelli con la gazzaladra, ma quelli sono introvabili, non ci sono più da nessuna parte. Qualcosa c'è. Urca, no vabbè, se le metti in una puntata, guarda che succede. Poi siamo tanti, per cui passo anche ai miei colleghi. Bene. Sarò l'attore di tutte queste richieste varie. Ma sono curioso, cosa ti chiedono? No, adesso mi è arrivato questa richiesta dei filmati delle prove tecniche di trasmissione a colori. Poi se mi arrivano delle altre richieste te le giro, perché sono bellissime. Sono importanti perché ti danno proprio il polso di quello che piace alla gente da casa, che vogliono vedere. Degli sceneggiati è stata fatta proprio a seguito delle richieste varie, quindi io non so, ho montato una puntata dedicata all'amaro caso della baronessa di Carini, fantastico, quello con Ugo Paglia e Janet Hagren. Poi A come Andromeda, che è stato il primo sceneggiato un po' fantascientifico, e poi Il ritratto di Donna velata con Daria Nicolodi, che aveva appena fatto, insomma, Profondo Rosso, quindi c'è tutto questo è, io ho fatto i sceneggiati misteri. Che meraviglia. Ti faccio solo un'ultima domanda al volo: quanto tempo ci si mette per realizzare una puntata di Teche Teche, visto che ne fate tantissime? Guarda, noi abbiamo una settimana per le ricerche e poi una settimana di montaggio, che in realtà sono 5 giorni, 5 accidenti, turni di montaggio. È poco. Non è tanto, anche perché poi devi pensare che un turno se ne va solamente per tutta la lavorazione tecnica, sono tutte cose in 4/3 che noi dobbiamo riportare in 16 noni. Con spesso delle difficoltà enormi, perché i balletti sono difficilissimi da portare da 4/3 a 16 noni, perdi un po' le gambe, per non tagliare le teste sei costretto a non fare vedere, per non fare delle cornici attorno, ma tenerli a schermo intero. Sì, schermo intero. Mamma mia, bello. La diatriba anche lì, molti telespettatori dicono: ah, ma voi dovreste tenere tutto in quattro terzi con i bandoni neri laterali come erano originariamente. Edoardo Lavezzari, in regia, di lui è per i bandoni, tu sei per i quattro terzi con la cornice. Vabbè, esatto. E invece la rete vuole il 16 noni come il resto della programmazione, quindi ecco, noi, vedi. Noi ci adeguiamo a quello che ci viene richiesto. Allora qui, oddio, ci sono dei filmati delle prove tecniche, quiz, 7:30 con Vianello, i gialli, fermate il colpevole, vedi, poi arrivano, arrivano. Li vedrete, tutti, quest'anno li vedrete. Sì. Grazie, grazie a Salvo Guercio e mi raccomando un buon lavoro a tutta la squadra di Teche, finalmente guarda, estate. Guarda, sono tantissimi colleghi fantastici, tutti bravissimi, proprio straordinari, con la nostra Elisabetta Barduagni che ci coordina tutti e sono veramente... siamo un bel gruppo. Si vede, si sente, si percepisce. Grazie Salvo, a presto. Un abbraccio grande, buon proseguimento. Grazie, grazie per l'attenzione, grazie mille. E per l'affetto. Grazie, tu ogni volta. Un abbraccio grande, grazie, ciao, ciao. Salvo. Diego, un attimo di pazienza, diamo la linea alla viabilità e poi ritroviamo i nostri temi di RadioTube Social Network, a tra poco. Prospettive per l'estate 2020, la sa o non la sa? La so, certo che la so. Dunque, partendo da un presupposto di bonus single di 150 euro che mi dovrebbe spettare, si pensava... Mykonos, la Grecia. Quella stessa Grecia che ha aperto a 29 paesi tranne che all'Italia. No, dicevo, Mykonos no, sicuramente no. Esatto, ci piacerebbe andare a Mykonos, no, Mykonos. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... RadioTube Social Network. Eccoci qua con Diego Castelli, il nostro co-conduttore che abbiamo chiamato in causa un po' prima. Oggi è stata una puntata un po' più dinamica, ma d'altronde siamo in diretta, un po' no, Diego? Cardiopalma. Ma siamo della diretta, in diretta, come si suol dire. Bello della diretta, è certo. Ah, vedi che poi qua arrivano i messaggi ancora sulle cose che vogliono rivedere in televisione. Un'ora al giorno non si riesce a trovare, si testa l'audience che si crea in quel momento e poi si vede. Non è facile dire si testa l'audience. Conosco bene questo tipo di richieste, ecco, anche da parte ecco, mia. Ecco, diciamo. Visto che tu sei, io poi dico channel manager perché il tuo job title, come si dice in inglese, però sei un direttore di rete, non è proprio facile dire si testa, vediamo come va, eh? No. No, non è facile, ma noi abbiamo anche, per dire, delle persone in realtà carinissime, super fan, che magari di certi film ci chiedono: ma non ci potete mandare la versione, perché magari esiste una versione che dura, che ne so, 40 minuti in più, tipicamente dei film marittimi di cui parlavamo prima, e cioè la versione dura 40 minuti, non potete mandare quella, e però tu sai nel tuo intimo che la versione che dura 40 minuti in più di solito va sempre male, perché in realtà c'è magari una maggioranza silenziosa che in realtà preferisce la versione originale, e quindi mandi la versione originale perché devi far di più. Però le persone che poi ti chiedono ti dicono: ma no, ma non potevi mandarla. Non potevo mandarla. Questo per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare mille. Infatti, no, è difficile saperlo da telespettatori. Io poi mi metto nel ruolo del telespettatore, perché io conosco il vostro lavoro e però so che anch'io direi: ma cavoli, ma si potrebbe sperimentare di più. No, non è così facile, non è così. No, poi viva Dio, adesso abbiamo appunto lo streaming, per le teche Rai c'era i Play. Io sogno sempre un teche anche di Mediaset, lo dico sempre anche ai vostri vertici, che secondo me anche Mediaset dovrebbe tirare fuori un po' di ciccia dagli archivi, Da un certo punto di vista qualcosa esiste, perché da molti anni ieri oggi in TV, per del chi mio come vecchio me... collega Paolo Piccioli, per vecchio Paolo non Piccioli. Vecchio no, lui, no, ma nel senso no, che se no si offende giustamente. Nel senso che eravamo colleghi qualche anno fa, Rete4, e lui fa questo lavoro da anni. Effettivamente poche volte è stato fatto l'esperimento di metterlo lì in maniera strutturata come invece viene fatto con Teche. Ieri oggi in TV io lo conosco bene da Insonne, perché... Esatto, perché viene usato spesso così, anche per riempire certi buchi di palinsesto che si creano in modo bello e non in modo così, qualunque cosa capita. È chiaro che il raggi in TV è, tra virgolette, penalizzato da un punto di vista cronologico, secondo me, perché anche Mediaset ormai ha una storia, Mediaset prima Fininvest ha una storia lunga e piena di belle cose, che però inizia, diciamo, a metà anni 80. Certo, e certo. Invece le Teche Rai hanno 30 anni in più di storia del paese, non so come dire. È vero, è vero, è normale. Sono un po' in vantaggio, diciamo, sono un vantaggio temporale, ovviamente. Un vantaggio anche temporale, sì, sì. Ma parliamo un po' delle cose che si sono, di cui si è parlato di più questa settimana in rete, i video più condivisi. Mi viene da ridere perché io non dicevo virali neanche prima, quindi non corro il rischio di dirlo adesso. C'è un perché non si può più dire per la dai, non è che suona bene, no? No, vabbè, ok. Io magari invece adesso, ecco, ecco, vedi, c'è sempre l'ascoltatrice che scrive: ma se si guardano gli spezzoni, tanto meglio si guardano i programmi interi. E non è detto. E non è detto, invece non è detto uno. Non è detto. È come dire: se si guarda un film di un'ora e mezza. È un lavoro importante, eh? Cioè è un lavoro che ha senso. Cioè, anche perché non ci rendiamo conto di quanto le trasmissioni di un tempo fossero lente. Cioè magari verissimo. Noi gireremmo il canale dopo due minuti perché non siamo più abituati a quel ritmo, a quella. E poi davvero ci sono in rete, quindi per fortuna rispetto a quanto eravamo ragazzini noi, che se non si vedeva una cosa era persa forever, perché era persa perdevi una puntata di un telefilm ed era perso. Non a caso ho detto telefilm. Un'infanzia difficoltosa. Ecco. Personaggio della settimana, suo malgrado, secondo me è lui. Guardavano un po' con sospetto questo mio ritorno. Ma il pregiudizio ideologico, scusami, nei tuoi confronti. No, aspetta. Vuoi condurre tu? No, scusami. Ah, ok, fantastico. Il pregiudizio... Pierluigi Diaco, che a Monica Setta dicevo... Sai che io avrei risposto... Ma sì, dai, conduco io. Così, solo... Beh, la Setta è capace, quindi poteva assolutamente... Ma appunto, non per antipatia o per che cosa. Ma scusa, non è che la sta... Cioè, non si stavano... lei non lo stava interrompendo, no? C'era una roba, dialetticamente, parli tu, parlo io, parli tu, parli io, vuoi condurre tu? E gli ho detto, ma dai, sì che conduco io. Così. Sì, sono d'accordo. In generale è una roba che secondo me si è ingigantita un po' oltre la sua effettiva rilevanza, secondo me. Però, devo dire che un po' però lui ce ne ha messo, perché poi è tornato sull'argomento con questo. Io ogni tanto, come Flavio, ho perso la lucidità e ho perso anche la pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto. E fare questo mestiere con la passione, con la dedizione con cui lo facciamo io e questo signore qui, a volte può portare a perdere la pazienza. Quindi se avete visto in circolazione in questi anni degli audio o dei video, non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento e al carattere dei personaggi televisivi. Perché come accade a voi? Cosa diciamo? Allora, se io avessi visto questa cosa prima di aver visto il dialogo con Monica Setta, avrei pensato che si erano menati. Ma certo! Invece, mamma mia, cioè, c'è stato un piccolo momento di misunderstanding, un piccolo momento di imbarazzo in diretta, ma per qualcuno lui magari sarà stato anche un filo sgarbato, le sensibilità sono diverse, però lui effettivamente ci ha messo il carico dopo, cioè si è un po' esagerato anche nelle scuse, cioè non lo so, vabbè ragazzi, secondo me questa roba poteva passare in cavalleria più facilmente. Sì, perché però ormai la rete ingigantisce tutto. Non abbiamo, è proprio il posto degli opposti, non so come dire. Cioè il medio non esiste più, ma te lo dico, lo vedo sul sito, noi non riusciamo più a recensire una serie come se fosse media, cioè o è un capolavoro o fa schifissimo, cioè non esiste, cioè non è più concessa la via di mezzo, per cui io posso dire questa cosa è carina, vedetela, non vi cambia la vita, no, sotto arrivano non ho mai visto niente di più bello, oppure no, ho buttato via la mia vita perché ho visto 40 minuti di questa cosa, boh, non lo so, cioè la via di mezzo è così carina. È vero, e quando non ti scagli contro una cosa, non dici che è un capolavoro, è perché non hai il coraggio di dire: ma io magari l'ho trovato, esatto, sì, carino, ma senza infamia e senza lode. No, sì, dai, allora voglio invece farti sentire a proposito della passione che si mette nel lavoro. E io in questo, allora, non posso dire di no, insomma, effettivamente la scena delle lacrime era un po' troppo, però do il beneficio del dubbio. Peraltro conosco qualcuno che lavora con Pierluigi Diaco che dice che queste scene a cui lui si riferiva del passato non sono davvero accadute, quindi beneficio del dubbio. Però io vorrei rispondergli così, affiancandogli Ciccio Graziani, l'ex calciatore, che dà la sua versione, visione, secondo me, in generale della vita. Eccolo qua. Io ce l'ho con quelli che si lamentano che a giocare a pallone è troppo caldo alle 5 e un quarto, alle 7 e mezza, alle 9 e tre quarti e dalle 8 che c'è da fare sto massetto di cemento, che siamo a lavorare per farlo e per portarlo a destinazione. Se venissero qui a fare queste cose qui, io dico che preferirebbero giocare a pallone, sicuro. Roberto, che ne dici? Si lamentano. Si lamentano perché stanno troppo bene. Guarda qua, Roberto, 66 anni, 67, va in pensione fra qualche mese. Dimmi te se una persona così ancora deve stare a lavorare, a farsi il culo. Allora, devo dire la verità, lo dico anch'io quando mi lamento che vado al lavoro, dico sì, però c'è gente che mette l'asfalto, sì, sulle strade, che è il caldo, ecco, diciamolo. Questa sì, no, diciamo, lucidità, dai, diciamo, di Ciccio Graziani ci mette un po' tutti con lei. Molti con i calciatori finiscono di giocare, diventano allenatori, e invece Ciccio Graziani è diventato maestro di vita, che mi sembra comunque un bel cioè un upgrade non indifferente. Però dai, c'ha ragione. Io poi non faccio muretti e non gioco a pallone, quindi sono super parte. No, un po' c'ha ragione. Non fai muretti, però scrivi pure tu. Cioè, raccontami cosa succede con Serial Minds. Cosa succede? Che pochi giorni fa, oggi è il 4 di luglio e il 30 di giugno abbiamo fatto 10 anni di Serial Minds. Ma siete diventati grandi. Siamo diventati grandissimissimissimi. Ho perso, in questi 10 anni ho perso anche i pochi capelli che mi rimanevano. E praticamente cosa è successo? Che usciamo con un libro. Attenzione, magia. Che pubblicheremo verso metà autunno, diciamo, ecco, l'idea sarebbe metà ottobre, se ce la facciamo, se bene, riusciamo. Bene, tanto come stiamo sentendo dalle cotiche, cioè dalle coliche, cioè da questo video che ci sta accompagnando prima della viabilità, le coliche, sì. Che cosa vogliamo fare quest'estate? Niente, scriviamo un libro. Correggere bozze, nel mio caso, probabilmente. Esatto. Anche se qualche viaggettino si farà, però ci hanno detto che ci devo mandare le bozze e quindi me le porterò anche in giro eventualmente da correggere. E siamo molto contenti. Naturalmente ti chiederò di reinvitarmi di nuovo poi quando uscirà, perché gli ascoltatori di Radio 24 sono tante brave persone, ma io non credo che tre mesi possano ricordarsi. No, quindi scatta il marchettone proprio. Sì, senza pietà. A manetta. No, al momento non c'ho neanche il titolo, pensa, quindi, perché stiamo scegliendo fra due o tre titoli. Guarda come siamo bravi a farci pubblicità. Se uscirà un libro, non sappiamo quando, non sappiamo il titolo. Non sappiamo il titolo, però ti posso dire, guarda, allora fammi chiudere, ti dico che ci saranno, diciamo, 20 anni di serie TV raccontati in una quarantina di momenti indimenticabili, ecco. Ok, di quella che è considerata la seconda o terza seconda dei punti di vista Golden Age of Television, sappiamo che negli ultimi 20 anni le serie TV sono esplose, e faremo una specie di così, un po' di storia, un po' di mood, un po' di emotività. Wonderful. Breve pausa e poi saremo ancora insieme tra poco. Quindi si pensava non so, road trip USA, Route 66. Stati Uniti, ma che magnifica idea! Con il coprifuoco dovuto ai disordini sociali, i voli cancellati a causa Covid. Mi sembra veramente eccezionale. Senta, Corica, faccia una bella cosa. Torni al prossimo appello, che probabilmente è la cosa migliore che può fare. Non la prego, professor, mi faccia un'ultima domanda. Io ho studiato tanto per sta cazzo d'estate 2020. Sono pieno dei gruppi WhatsApp. Guardi, Sardegna 2020, Italiani e Mauritius, Fattoni in Puglia, Ceccano post-Covid, il mio viaggio a New York. Se farà un cazzo di tutto questo, un cazzo, però ci proviamo, eh? Rimaniamo in Italia, facciamo così. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con la seconda ora di Radio Tube, l'ora di Radio Tube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete con il co-conduttore d'eccezione questa settimana, il cofondatore di serialminds.com, questo sito su cui andare a vedere tutte le indiscrezioni sulle serie TV, tutte le recensioni, ma anche channel manager di Iris 20 e canale 34 di Mediaset, Diego Castelli. Ribentornato, eccomi. Diego. Sempre qua, sempre ormai, qua. Ormai con l'app stai andando come un treno, ormai non hai più. Sono. Ma ti tra sei, l'altro, tu preso... parli e io, sì. Io la fisso sperando che non crashi in nessun modo, ma non crasha. Quindi ormai non chiamiamolo così. Il crash, però, e non chiamiamolo. Va bene. Quel che è lei, insomma. Allora, Diego, nella prima ora abbiamo avuto ospite, e anche tu lo conosci molto bene, Massimo Scaglioni, professore della Cattolica, che ha fatto questo studio su come sono cambiate le abitudini di fruizione della televisione. Anche la televisione tradizionale è stata vista molto di più in quest'anno e in particolare nei mesi di lockdown attraverso la rete, quindi ormai tutti, anche per questo prima citavo Rai Play, ormai tutti hanno in mano il tablet, il telefonino, guardano lì i programmi televisivi, le repliche, addirittura le retro repliche, oppure collegano i loro device allo smart TV. Oddio, quante parole inglesi, vabbè, questo ci tocca. Vuoi chiamare la televisione intelligente? La televisione intelligente. Attaccano i loro apparati al televisore intelligente e fruiscono dei programmi scorrimento dalla... non mi viene, come possiamo dire, streaming. Bello, devi fare una puntata intera su sta roba, sulla difficoltà che ormai abbiamo a parlare italiano. Mamma mia. Voglio invece parlare con te di una cosa molto carina che ho scoperto, un'interazione tra rete e serie TV e telefilm, che si è inventato un canale YouTube di una serie TV. Io sto facendo un ripassone perché non l'avevo mai vista, mi sto guardando stagioni su stagioni su Amazon Prime Video di Superstore. Non so se tu la conosci, molto carina, una sitcom estremamente tradizionale. Sì, con America Ferrera che era di Betty al suo tempo. Certo, proprio la sitcom classica, quella con le risate, le gag, ambientata in un supermercato. E senti cosa si sono inventati nel loro canale YouTube. The pixels are slowly forming your face. It's like, hello to all of you tuning in. Our first segment is something for the fans. Allora, ci sono delle live tra gli attori della sitcom, condotti da una delle attrici che si chiama Lauren Ash, che secondo me è una delle future stelle della TV americana, perché è bravissima e secondo me sta dando anche prova di essere una bravissima conduttrice. Praticamente fanno le live con i protagonisti della serie per tenere compagnia al pubblico, che in America è ancora in pesante lockdown in alcune zone. Non è male questo entrare nelle case anche durante, peraltro, la pausa tra le stagioni. Sì, non è male. Io credo che comunque nel periodo della pandemia, che appunto non è ancora finito, di fatto se guardiamo al mondo, abbia creato, diciamo, il terreno per sviluppare tante idee nuove, alcune molto belle. È chiaro che non si tratta certamente del tramonto del modo tradizionale di fare televisione, anche perché quando vai a vedere queste cose vedi anche una differenza tecnica importante, però effettivamente c'è la possibilità di sentire sentirsi vicini, non so come dire. Tu adesso hai citato Superstore, a me viene in mente anche il bel format che ha fatto Josh Gad, altro attore peraltro seriale cinematografico, che in questi mesi ha raccolto via videochiamata un sacco di attori di vecchi film, i Goonies, il Signore degli Anelli, tutti insieme a fare una specie di ospitata, tutti insieme sul suo computer praticamente, che è una cosa che normalmente non si sarebbe mai fatta, no? Perché uno dice vabbè, invitali in uno studio e facciamo una cosa come si deve. Invece il fatto che le condizioni sono un po' mutate permette anche a chi guarda di, tra virgolette, abbassare un po' le proprie aspettative, i propri standard, cosa che però poi consente di fare anche cose molto carine. E in questo caso di Superstore è bello perché dà anche un'idea di vicinanza, diciamo, sia del cast che della produzione. Hanno fatto, c'è stata una puntata speciale anche di Parks and Recreation che aveva anche finalità di beneficenza, sempre con questo concetto qui, insomma, del vediamoci in videochiamata. Quindi secondo me questo è molto bello, perché ricordiamo che in America c'è questo tema che le serie non si stanno girando, o si stanno girando molto a singhiozzo, e quindi in autunno aiuto, perché potrebbe esserci davvero molte meno cose rispetto a un normale autunno. Superstore, tra l'altro, poverini, non sono riusciti a mandare in onda l'ultima puntata della quinta stagione, ce l'hanno fatta tutta tranne la quinta stagione, che si sono trovati bloccati proprio dalla pandemia, ecco. E quindi avremo meno cose da vedere in autunno. Invece chissà se avremo meno cose da ascoltare, non lo so, adesso è ovviamente il momento dei tormentoni. La scorsa settimana c'era un ascoltatore o un'ascoltrice che mi scriveva, così anche con un po' di ironia, ma non abbiamo ancora fatto il bilancio dei tormentoni. Intanto io vorrei introdurre il nostro ospite con questa che è già una hit. Eccola qua. Poeta urbano. Guarda il cielo, proprio lì una stella cade. Tu che balli uscita da un locale, dopo un po' la timidezza ti scompare, e ci troviamo arriva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo. Allora, questa è l'ultima di Rocco Hunt con Anna Mena, ed è al numero uno delle tendenze di YouTube questo pomeriggio. Diego, tu come sei messo a musica e tormentoni? Sai che mi fai una domanda trabocchetto, perché sai benissimo che io con la musica non ne so niente, e quindi mi fido. Io di solito sono che i tormentoni ci arriva in autunno. Cioè in autunno non è sbagliato, comincio a sentire però, i tormentoni dell'estate. Non è sbagliato, tiene su però anche il mood, non so come dire. Posso su, anche dire che un tempo il tormentone si incoronava alla fine dell'estate, si diceva questo è stato il tormentone dell'estate. Adesso già vengono lanciati come tormentoni. Adesso c'è molta consapevolezza. Ho capito, però devi meritartelo, devi guadagnartela, devi guadagnartelo, esatto, sul campo. Allora voglio esatto capire un po' com'è questo meccanismo del mi invento un tormentone, lancio un tormentone, ma come funziona? Non possiamo che chiederlo a chi conosce non solo come si scrivono le canzoni, come si scelgono le canzoni, come si scelgono gli autori, come si attribuisce una canzone a un artista, un carissimo amico di Radio 24, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, il nostro amato Roberto Razzini. Ciao Roberto! Ciao Marta, buon pomeriggio. Lo sappiamo, lui è l'uomo dietro alla Warner Chappell Music Italiana, quindi è l'uomo che sa di edizioni, di autori, ascolta una canzone, capisce subito la canzone adatta per chi, per quale momento, per quale disco. Ma ho torto o ragione a dire, cioè è una mia sensazione ovviamente, ma prima il tormentone si decideva a posteriori, quest'estate abbiamo ascoltato questo, è un tormentone, adesso ormai tutti lo confezionano e ce lo vendono come tale. Ma sì Marta, allora buon pomeriggio innanzitutto. Io ti ho travolto come sempre. E grazie, no ma va benissimo così, e grazie per l'ospitalità. Sì, diciamo che noi siamo stati abituati ad avere la consacrazione del tormentone estivo in tempi passati all'Arena di Verona con Vittorio Salvetti e il suo Festival Bar. Sì. I tempi sono cambiati, il tormentone diciamo lo si propone all'inizio come tale e poi si spera che venga anche battezzato dal mercato in questa maniera. Diciamo che una volta i tormentoni erano abbastanza naturali per certi versi, adesso in qualche modo vengono un pochettino costruiti a tavolino, perché c'è una sorta di fil rouge che lega tormentoni, tant'è che ormai Viale Ceccarini è diventato un po' Ocean Drive di Miami. Ecco, no? Arriva subito il messaggio al 349-238-666. Perché? Tre punti esclamativi. Perché in Italia il tormentone estivo deve essere sempre un latino, un reggaeton? Cinque punti di domanda. Effettivamente adesso è, cioè, il reggaeton è una tassa. Ma diciamo che, allora, innanzitutto, il tormentone per definizione deve avere dei canoni, questo fin dagli anni 60, ovvero deve avere un testo molto leggero che evidentemente porta all'estate, richiama l'estate, alle spiagge, al mare, ai pattini, alle maschere, ai fucili e agli occhiali. Poi deve avere un ritmo accattivante, se riesce a far ballare molto meglio per tutti, e quindi diciamo che nel mondo, in un mondo come quello in cui viviamo oggi, globalizzato, dove in qualche modo i vari generi si mischiano e lavorano da un oceano all'altro, da una parte dell'oceano all'altro, diciamo che il reggaeton è un po' una scorciatoia per arrivare a questo risultato, tant'è che abbiamo scoperto un filone in Italia molto interessante e prolifico sul reggaeton e sui suoni latini, e in estate arrivano ondate di brani con queste caratterizzazioni. Peraltro poi hanno successo, quindi insomma diciamo che finché il mercato li consacra come brani di successo vuol dire che funzionano. Poi Diego Castelli li ascolta a ottobre. Quando... Vabbè, ma perché? Sì, sì, ascolta ottobre. Lui ha diciamo così, che vive in un emisfero che è diverso dal nostro, però va benissimo, perché sì. Poi anch'io ci arrivo con calma, nel senso che non sono un appassionato che si scatena immediatamente, li devo metabolizzare un pochettino. Però credo che oggi il tormentone nasca un pochettino in anticipo rispetto al passato con la consacrazione di fine estate, perché ha quelle caratterizzazioni che lo uniformano un po' al petto dell'estate. Poi il tormentone diciamo che lo scopriamo dopo anni di successi, che è un tormentone. Quando oggi cantiamo ancora le canzoni degli anni 60, quelli erano i tormentoni. Non so cosa canteremo fra 20 anni dell'estate del 2020, lo vedremo fra un po'. Non lo so. Allora, un attimo di pausa, viabilità, e poi siamo ancora insieme con Diego Castelli, con Roberto Razzini, con Radio Tube, per l'ultimo spicchietto del nostro sabato in diretta. Italia, che come avrà seguito durante la mia cattedra, rimane tra i posti più belli del mondo. Inoltre si tutelerebbe la microimpresa, che in questo periodo ha più che mai necessità di ripartire, per non parlare delle bellezze artistico-naturali che purtroppo, Colica? Che purtroppo non ci sono. Non ci sono? Ci sono, volevo dire. Ci sono o non ci sono, Colica? Non so, professore, non so manco di che stava a parlare, io abito a Roma, insomma, andate ai musei vaticani. Ma certo che ci sono, semplicemente non vengono abbastanza valorizzate, no? Quanto è vero, noi ci abbiamo tra i posti più belli del mondo, mica li valorizziamo, eh? All'estero, se ci avessero avuto un nasone in San Pietrino, ci tiravano su un museo a pagamento. Radio Tube Social Network. Mai stato un uomo assist? No, Bobo sa fare solo gol. Cartellino giallo, bollettino rosso, in casa, fuori casa, tanto cambia poco. E questa è la canzone dei Bomber, no? Adani, Ventola e Bobo Vieri. Roberto Razzini, ma hai scoperto il talento di Nicola Ventola, adesso non si ferma più. Sì, adesso Nicola è lanciato verso il mondo della discografia, dei successi estivi e non solo, vedremo cosa ne risulterà. Però vedi che poi la caratteristica, diciamo così, molto efficace, molto semplice del reggaeton e dei ritmi latini, poi in qualche modo è molto permissiva, perché poi alla fine non serve il grande talento, diciamo così, dell'artista discografico come siamo abituati a conoscerlo, ma è sufficiente essere un gran personaggio. E poi oggi come oggi viviamo di questi successi con diciamo così, questi gruppi di lavoro abbastanza ampi, perché ormai stavo ascoltando in questi giorni la New Music Friday di Spotify, e sono tutti artisti con feat, con ospitate di altri artisti stranieri molto spesso, Quindi diciamo che questa è l'occasione per fare festa, diciamo così. Poi dai, diciamo così, il tormentone, sì dai. E poi il tormentone vero lo decidiamo dopo l'estate e vediamo chi ha vinto la sfida, perché poi così almeno ci divertiamo a fare anche un po' di, con un po' di spirito sportivo. Però non voglio non citare il tuo libro, perché Roberto Razzini ha scritto dal vinile a Spotify Quello che resta sono le canzoni per People Editore. Io devo autodenunciarmi perché ho firmato la prefazione, per, lo devo dire perché sennò sembra che sempre no, in palese conflitto di interessi. Sono in palese conflitto di interessi, lo dichiaro, lo dichiaro, perché Roberto Razzini è veramente una persona che conosce tanto della musica e sono contenta che abbia scritto questo libro nel quale racconta dei suoi paio d'anni di carriera musicale e dei cambiamenti dell'industria musicale in questi anni. Grazie Roberto di essere stato con noi, a prestissimo. Grazie. Un abbraccio, Marta, grande sempre. Roberto, un bacione. A presto. Grazie. Anche perché qua abbiamo un sacco di puntate di come nasce una canzone da fare, da preparare per l'anno prossimo, perché da un po' che siamo fermi causa lockdown, ma prepareremo un sacco di puntate nuove. Diego Castelli. Sì. Allora, dimmi. Sai qual è il... Ti è uscita un po' così, dimmi. Strano, un perché poi con non... ah sì, sono diventata Margherita, ma non sono piemontese, sono brianzola. Diego, sai che cosa mi ha fatto impazzire in questi giorni tra i video in tendenza di YouTube? Secondo me loro Sentiamo. Sono un talento puro, puro distillato cristallino di talento, i The Jackal, che hanno fatto un video per sponsorizzato con dentro la pubblicità di un caffè. Ma cosa hanno fatto? Delle finte pubblicità e in mezzo ci hanno messo la pubblicità vera con lo stesso spirito. Dai, sentiamone un pezzettino, Roberta. Colazione carica di energia. Spendiamo così, carichi di energia. Qual è il nostro segreto? Merendella 16 cereali. Ci dà la spinta giusta per iniziare la giornata. E grazie a Merendella che siamo così allegri la mattina. Ingredienti selezionati attentamente. 16 cereali, ricchi di cereali, con tutto il gusto delle merendine, per dare la spinta necessaria a te e a tutta la tua famiglia. E da oggi Sun che setta mati. Papà, ma noi dobbiamo andare, dobbiamo fare colazione. Opar. Beh, geniale, Opar. Fantastico, fantastico. Fantastico. Ma alla fine è carosello, no? Cioè, sì. Alla fine è buttare dentro comunque messaggi commerciali, tra virgolette, però più con la storiella intorno. Secondo me loro sono veramente bravissimi in questo e lo fanno... cioè non ci si vergogna di questa cosa e io trovo che sia giustissimo così, per cui mettono effettivamente la creatività al servizio di ciò che poi gli dà da mangiare, quindi io la trovo una roba fantastica, devo dire. Sì, anche e questo perché... pezzo qua mi ci trovo tantissimo, perché io mi sveglio tardi alla mattina. No, io, e perché, mi dà fastidio. Io perché ho i bambini dei vicini di casa che sono così, che io vabbè. Io ti dico questo, io adesso sto lavorando in smart working, no? Da mesi, e mi sveglio 5 minuti prima di accendere il computer, perché è giusto così. E quindi mi sveglio così e c'ho invece i colleghi che sono lì da un'ora prima e vogliono fare la call quando vestiti, io ancora non ho mangiato video, la merendina. La merendella. La video. No, lasciatemi stare. Quindi capisco benissimo questo scherzo. La merendella, i 16 cereali al gusto di 16 cereali. Ovviamente non è vera, non esiste la merendella, grazie al cielo non c'è, però in mezzo a questo video c'è una pubblicità vera. È vero, hai detto una bella cosa, lo spirito è quello di carosello. Molto carini sono questi video e alla fine mi fanno passare la sponsorizzazione con un sorriso, e quindi sono veramente bravi, veramente bravi. Andatevelo a vedere, perché poi in questo video c'è anche la pubblicità finta di un profumo finto che si chiama Chopero e fa veramente ma troppo ridere, perché è una parodia geniale delle pubblicità dei profumi. Io devo già salutare, perché siamo già nel momento della chiusura di questa puntata pirotecnica, in cui è successo di tutto, ma l'abbiamo portata in fondo, soprattutto grazie a un co-conduttore inossidabile come Diego Castelli. Ma devi smetterla di dirigere dei canali, tu devi fare il performer. Pensiamo. Presentami qualcuno, lo devo dire. Vabbè. qualcosa mettiamo insieme. Straordinario. Sì. Allora, cofondatore di serialmice.com, channel manager di Iris, di 34 e di 20, canale di Mediaset, grazie per essere stato con noi. A Diego Castelli, aspettiamo il tuo libro. A presto, il libro tuo di Marco Villa. A presto, grazie Diego. E devo ringraziare anche Alessandro Schirano in redazione, lo stesso Edoardo Lavezzari e la nostra Roberta Frisani. Oggi hanno fatto i miracoli con me, per me. Siamo riusciti a fare di tutto. No, loro sono riusciti a fare di tutto. Ci troviamo il prossimo sabato. Ciao. La prego, sì, non mi faccio un'altra domanda. Mare o montagna, Gore? Mare o montagna, la so. Mare o montagna. Allora, il mare presenta sicuramente degli aspetti favorevoli, ovvero il mare stesso, che comunque è bello, e il sole, la fregna e il divertimento. Però sicuramente come contro c'ha la sabbia, il sale, la salsedine, l'umidità. Collega, per favore, le ho fatto una domanda ben precisa. Mare o montagna? Lago. Vada a fare in culo, Colica. Si affitti un bel pedalò e se ne vada a fare in culo al lago di Bracciano. Fuori, fuori dai coglioni, Colica!